9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, allora buona Pasquetta e spero che abbiate veramente passato una Pasqua nello spirito, almeno non solo per chi ci crede ma anche un po' tutti, della resurrezione, della comunione, della redenzione. Detto tutto questo, ovviamente per credenti e non credenti questi giorni di festa sono anche un'occasione per riflettere su quanto possiamo dare a chi ha problemi, a chi sta male, a chi è stato colpito da sventure come quella di cui nella notte prossima celebriamo un anno, e cioè il terremoto che ha colpito con una magnitudo 5.8 la scala Richter, che ha investito L'Aquila e i comuni della provincia, uccidendo oltre 300 persone. L'ho sentita rimbalzare in tutti i giornali radio, ma per una volta io devo dire che non mi dispiace l'incalzare dei media che battono tanto sulla stessa notizia. Io credo che a distanza di un anno l'interrogarsi su quello che è stato fatto, su le conseguenze di quel terremoto e su come è stato risposto a quel sismo corrispondano a una sfida necessaria per un paese come il nostro, che si fa giustamente vanto di avere nella solidarietà umana, nella spinta dei volontari, un pilastro aggiuntivo rispetto a quello degli interventi pubblici, che sono fondamentali in occasione di emergenze naturali, e che costituisca per così dire un'occasione di un bilancio obbligato. In ogni grande evento naturale che ha colpito drammaticamente il nostro paese, pensate al Friuli, pensate all'Irpinia, pensate al terremoto in Sicilia, a Gibellina anni prima, ogni volta c'è stata un'evoluzione successiva delle modalità con le quali la macchina pubblica era in condizioni, per le risorse che aveva disponibili, di dare una risposta, e di volta in volta ciascuno di questi eventi ha provocato un balzo evolutivo verso la prontezza e la qualità e la quantità delle risorse messe a disposizione della macchina pubblica delle emergenze, fino ad arrivare al sistema della protezione civile, così come essa è organizzata e così come essa è stata investita, da polemiche dopo le recenti indagini che l'hanno colpita. Dall'altra parte sono state realizzate modalità nuove di integrazione tra la macchina pubblica e tutta la parte degli interventi dovuti al volontariato, a questa strepitosa capacità di 6 milioni di italiani di rendersi disponibili per aiutare gli altri, e dall'altra però si sono di volta in volta messe a fuoco anche modalità completamente nuove di dare risposte con tempi diversi e strumenti diversi alle terribili situazioni create dagli eventi sismici, graduando diversamente il focus e le aree concentriche degli interventi su cui intervenire, graduando diversamente e distinguendo l'emergenza degli interventi da mettere in opera, tra il ripristino delle abitazioni oppure la costruzione di centri in luoghi diversi rispetto a quelli dei centri storici. Pensate solo alle polemiche nate in Sicilia, chiunque sia stato a Gibellina, e rispetto a i discutibili capolavori, diciamo così, dell'architettura urbanistica del nuovo centro rispetto a quello vecchio, sa di che cosa parlo. Pensate invece alla scelta del Friuli, dove la decisione di ricostruire più o meno dove era o com'era, ma certo con nuovi criteri antisismici, nuovi materiali e così via, era resa possibile anche dal fatto che i centri avevano aggregati storici antichi certo meno rilevanti e meno densi di quanto possa capitare in parti invece dell'Italia in cui nell'alto medioevo si creava l'aggregato centrale del centro urbano. Insomma, di volta in volta ciascuno di questi schiaffi della natura, schiaffi terribili della natura all'Italia e ai suoi cittadini, ha creato occasioni profonde per rivedere la macchina pubblica dello Stato e delle emergenze, la macchina dell'integrazione tra questo e i volontari, e poi i criteri e le priorità in base alle quali riorganizzare prima la lunga emergenza, poi il subentro e la concomitanza tra l'emergenza e la ricostruzione, e infine poi le fasi della ricostruzione che hanno a che vedere vedere non solo con la ricostruzione il più possibile fedele al passato dei centri in cui avviene la vita degli uomini, delle donne, delle famiglie, degli anziani, ma soprattutto poi che costituisce anche il reticolo per la rimessa in opera di ciò che consente alle imprese, artigiani, commerciali, industriali, di riprendere le sfide dello sviluppo e, se possibile, ulteriormente di potenziarlo. Ecco, su tutti questi argomenti, inevitabilmente, a un anno dal sisma dell'Aquila c'è motivo di riflessione. Questa volta c'è stato motivo di riflessione, ripeto, anche per un'indagine che ci ha profondamente messi con il muso contro lo specchio di fronte alle modalità con le quali alcune imprese e alcuni dipendenti e funzionari pubblici dello Stato, nelle maglie più larghe dovute ai meccanismi senza gare, come ovvio dal meccanismo dell'emergenza, ci hanno fatto riflettere. Io non sono, come sapete, garantista, ma insomma, nel leggere quelle intercettazioni sulle risate poche ore dopo il terremoto, sulle risate degli imprenditori, non può far bene allo stato d'animo di un paese che si interroga, come giusto ogni volta, in particolare dopo questa volta, perché questa volta i criteri sono stati diversi, e questa volta per molti versi, secondo me, giustamente, per altri non lo so, lo chiederemo ai nostri interlocutori, si è vantato di essere intervenuti con criteri di strepitosa nuova efficienza e con criteri di identificazione delle priorità dell'intervento, non solo dell'emergenza ma anche della via della ricostruzione, particolarmente nuovi ed efficaci. Motivo per il quale, a maggior ragione, sono poi nate le polemiche, perché è sembrato che il governo Berlusconi, intorno poi alla Protezione Civile guidata da Inger Guido Bertolaso, volesse menare un vanto diverso che dal terreno dell'emergenza umanitaria e della ricostruzione, un vanto politico. È una materia molto scivolosa, perché anche oggi, un anno di distanza, ovviamente sarà Guido Bertolaso che è atteso all'Aquila, e secondo me bisogna dare atto agli uomini della Protezione Civile di aver fatto, come sempre, tantissimo. Questo non deve esimerci però dalla capacità di riflettere. Vi faccio alcune cifre e poi vi presento i nostri ospiti, lasciando a loro la voce e l'opinione del bilancio. Ecco qua, ho tirato giù alcuni dati che spero siano i più ufficiali possibili. Rimangono totalmente inagibili o inagibili per rischio esterno all'Aquila il 32% degli edifici privati, il 21% degli edifici pubblichi, il 53,7% del patrimonio culturale. Rispetto alle 60.000 e oltre persone sfollate a seguito del sisma, i primi conti parlavano di 70.000 fino a 72.000, a dire la verità, quindi qui c'è una ridda di cifre ufficiali, di fonti ufficiali un po' diverse nei primi giorni, nelle prime settimane dopo il sisma. Comunque, rispetto a quelli, praticamente gli appartamenti del cosiddetto progetto casa hanno dato un tetto già a 14.000 aquilani, poi vi sono altre 2.400 persone alle quali sono state consegnate le 1.273 villette di legno del secondo progetto della ricostruzione d'emergenza. Nei comuni fuori l'Aquila sono stati realizzati quasi 1.900 moduli abitativi previsori, e sono già stati consegnati, quindi sono altre 3.300 persone che vi hanno trovato degna accoglienza. Quanto a chi resta negli alberghi all'Aquila, ho trovato cifre ufficiali che indicano in 2.455 abitanti ancora negli alberghi, 622 negli appartamenti delle delegazioni del G8, la scuola della Guardia di Finanza di Coppito, ricordate, e 146 anche nella caserma Campomizzi. Poi gli alberghi sulla costa continuano a ospitare 1.850 persone, e mentre 680 ancora sono ospitati negli appartamenti lungo il litorale marino. Quindi, insomma, da una parte i moduli abitativi del progetto case e le villette di quello MEP hanno sistemato 16.000 persone, dall'altra ci sono ancora migliaia di persone, perché il problema è quello del centro storico dell'Aquila, su cui fervono le polemiche, perché mentre questi progetti di attribuzione chiave in mano entro l'autunno e l'inverno di queste sistemazioni procedeva, sul fatto che il centro storico rimanesse chiuso senza avvio di ricostruzione hanno iniziato a fiorire le polemiche. Poi, secondo filone, quanto al riavvio delle attività economiche, altro punto interrogativo e altro motivo di polemica strisciante e crescente. Ecco gli ospiti della giornata. Abbiamo con noi Don Bruno Tarantino, che è il parroco della chiesa di Sant'Emerciano e Nicandro all'Aquila, e ha scritto un libro, Terremoto all'Aquila io c'ero. Buongiorno Don Bruno. Buongiorno, buongiorno dottor Gianino. Abbiamo poi il neopresidente della provincia dell'Aquila, Antonio Del Corvo. Buongiorno presidente. Buongiorno a voi, buongiorno a Don Bruno e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ed Eugenio Carlomagno, che è direttore dell'Accademia delle Belle Arti, è stato tra i primi animatori del Popolo delle Carriole, che insomma è il movimento forse più attivo nel richiamare l'attenzione sul centro dell'Aquila, chiuso, abbandonato e nel senso non ancora avviato la ricostruzione. Buongiorno Carlomagno. Buongiorno a tutti, grazie, buongiorno. Allora, io vorrei cominciare da Don Bruno. Io seguo, come tanti giornalisti, il suo blog ogni tanto, e insomma il blog della parrocchia di San Marciano all'Aquila, e ho visto che sabato proprio c'era un suo bilancio con critiche un po' personali sul bilancio proprio dei numeri a un anno dal sisma. Che pensa? Quali siano i maggiori problemi aperti ancora? Sì, guardi... Fa piacere che lei segua il mio blog, era nato come un blog parrocchiale e poi invece ci scambiamo anche altre opinioni e giudizi. E quello che io penso, anche con i dati che lei ha dato prima, che tanto è stato fatto, ma probabilmente in qualche parte di questo progetto qualcosa non ha funzionato, perché come diceva lei prima, se pensiamo che la maggior parte dei fondi sono stati impiegati nel progetto case e nei moduli abitativi provvisori e poi vediamo le cifre delle persone che sono ospitate, vediamo che sono meno di un terzo. Insomma, alla fine tra il progetto case e i moduli abitativi abbiamo un 16.700 persone rispetto ad una popolazione iniziale, come diceva lei, di 72.000 persone. Per cui mi chiedo se in effetti questo progetto è così vincente, è sicuramente un progetto utile, ma forse non era l'unico e forse non è così vincente come una certa propaganda ci sta facendo credere, insomma. Ecco, questo è il primo dato evidente che emerge. E un altro dato evidente è come anche qui la parte dei fondi non destinati al progetto case e al progetto MAP sono andati a mettere in sicurezza quelle strutture della città, del centro storico, che probabilmente non avranno possibilità di esistere, per cui sono stati spesi migliaia e migliaia di euro per mettere in sicurezza delle cose che si stanno sbriciolando comunque. Allora mi chiedo, era proprio necessario fare questo lavoro a tappeto subito, o forse non sarebbe stato più razionale e ragionevole vedere cosa può essere salvato e cosa invece purtroppo non può essere assolutamente salvato e intervenire già con una ricostruzione, perché poi purtroppo si è giocato molto anche con i termini, cioè il progetto case e i MAP sono stati passati come ricostruzione, invece sono proprio nuove costruzioni. Di ricostruzione vera all'Aquila non c'è nulla se non l'inizio di un cantiere nella chiesa di San Biagio d'Amiternum, dove proprio è iniziata la ricostruzione di quella stessa struttura. Allora, ecco, puntare tanti soldi su qualcosa che poi inevitabilmente andrà perso, non so quanto sia stato ragionevole. Ecco, il punto con ogni probabilità era quello della possibilità di attribuire risorse sia all'emergenza della riallocazione in tetti solidi, per così dire, non intende con l'inverno che incombeva, di un numero considerevole di coloro che erano stati colpiti dal sisma, sia dall'altra parte però di interrogarsi su come intervenire sulla specifica realtà del centro urbano. Questa idea di mettere i ponteggi dovunque e aspettare poi dopo è un'idea che Guido Bertolaso in questi, negli interventi degli ultimi giorni, sintetizza dicendo: ma certo che non è la ricostruzione si deve adesso agli enti locali aquilani, che dovranno decidere loro, certo con noi al nostro fianco, degli strumenti straordinari di intervento, ma dovranno decidere loro oggi come fare. Quindi, per così dire, Bertolaso rivendica sempre a sé esattamente la distinzione di questi due piani, che invece a lungo andare è esattamente il punto che ha iniziato a interrogare tutti e a creare le prime proteste. Ecco, caro Magno, lei ha più volte richiamato, con il movimento di cui è tra gli iniziatori, questo Re Carriola, il fatto che con ogni probabilità, le diceva, dopo l'inverno noi dei 1500 edifici storici che stanno nella zona rossa, una specie di parte morta oramai della città, troveremo poco o niente. Che senso aveva? Si chiedeva prima dell'inverno. Ora che siamo fuori dall'inverno? Beh, diciamo che noi ci ritroviamo adesso come eravamo il 7 di aprile. Sono d'accordo appunto quando è stato detto prima, però adesso non conviene a nessuno fare polemiche. Cioè, sono state fatte delle cose, sono state fatte velocemente delle case, logicamente ci sono solo 14 o 16 mila persone che hanno avuto, diciamo, un tetto, e gli altri stiamo in giro, abbiamo trovato una sistemazione diversa. Però il problema fondamentale, noi cerchiamo di richiamare il fatto che vogliamo la ricostruzione. La ricostruzione deve essere fatta dagli enti locali. Io saluto il nuovo presidente della provincia con la speranza di collaborare sicuramente, ma per un motivo semplicissimo, perché noi adesso la protezione civile è andata via il 31 gennaio e ci siamo ritrovati con gli enti locali che stanno in affanno, non riescono a muovere nulla. Noi abbiamo il comune dell'Aquila imbalsamato, sono 40 consiglieri comunali e 10 assessori che si parlano tra di loro e ognuno pensa di dover ricostruire singolarmente questi fari dei progetti. Questo è gravissimo. Non c'è un piano complessivo per i puntellamenti, si è incominciato a puntellare tutto, come è stato già detto prima, in maniera indiscriminata, e questo è grave perché si doveva già battere e portare via le macerie. Dopo un anno non sappiamo i siti di stoccaggio. Questo la protezione civile non c'entra nulla, anche se può sembrare strano quello che sto dicendo, ma perché la protezione civile ha fatto quello che doveva fare. Adesso le polemiche sono costate tanto o poco, in questi casi anche interessa poco, perché sarà la magistratura, eventualmente gli organi competenti, a vedere, a indagare. Per noi cittadini vogliamo che inizi la ricostruzione del centro storico, perché la città sta morendo per un motivo, perché noi abbiamo 14.000 tra disoccupati e cassa integrati, non c'è più l'economia. Non si è pensato dopo un anno a ricreare un humus all'interno di questa città. Noi ci animiamo ogni domenica, diciamo, questo popolo delle carriole, ma non solo, perché lì adesso è stato connotato da una parte politica, non è affatto vero. Noi in piazza la mattina vengono di tutte le persone che hanno idee politiche completamente diverse e anche contrapposte, ma in questo momento siamo tutti uniti. Questo è fondamentale capirlo, ma tutta la ricostruzione che bisogna farla, bisogna progettare che cosa fare di questa città, una città storica, come dicevamo, con 1500 monumenti vincolati, con i più bei monumenti che hanno forse nella parte più della città stretta, che non possiamo più andarci. Non si pensa che noi cittadini ci hanno espropriato completamente dei nostri beni, delle nostre case. Ora, io posso adesso fare una domanda, Carlo Magno, per la sua esperienza professionale poi di direttore di Accademia delle Belle Arti, rispetto a questa specificità del centro storico dell'Aquila, appunto fortemente vincolato per la sua evoluzione storica, per la radice che poi nella storia lo rendeva così prezioso e che ha reso poi così doloroso il sisma che ha colpito. Ma nella sua esperienza, la dotazione di risorse umane e di risorse tecniche specifiche agli uffici del comune e comunque degli enti locali, poi sentiamo il presidente, con lui facciamo buona parte della seconda parte della trasmissione, degli enti locali che insistono sull'Aquila, hanno una dotazione di risorse, ripeto, umane, tecniche ed economiche e finanziarie alla luce degli stanziamenti successivi al sisma, in grado di provvedere a tutti quegli interventi che sono necessari, da un reticolo pericolo territoriale e dalla capacità di effettuare ricognizioni approfondite capaci di tenere ovviamente nella giusta considerazione rispetto alle priorità nella scelta tra buttare giù e ricostruire com'era e dov'era di tutti i criteri e ciò che era accumulato nelle diverse sedi, oppure c'è bisogno di pensare a una specie di agenzia esterna rispetto agli enti locali da dotare di risorse temporanee, sia pure per un tempo lungo, per tutto quello della ricostruzione, sia di risorse umane che di apparati tecnici? Guardi, le dico subito che l'amministrazione comunale non ha nessun tipo di possibilità di ricostruire, di progettare nulla, ma non perché io sia critico proprio nei confronti del sindaco dell'amministrazione, è che materialmente non ci sono gli uffici. Noi abbiamo per fortuna un'unità di missione diretta dall'architetto Fontana che sta innanzitutto capendo bene cosa fare. La cosa fondamentale è nelle linee guida che sono uscite 20 giorni fa, ha individuato già 6 zone, diciamo, limitrofe al centro storico da dove riniziare a ricostruire e a riprogettare. In più ha individuato al centro alcuni edifici che sono isolati dai quali noi possiamo ripartire con la ricostruzione. L'amministrazione comunale non ha nulla, il Presidente della Regione più volte ci ha detto, il sindaco dell'Aquila che deve proporre, e questo è fondamentale perché il Presidente Chiodi, che all'inizio è stato molto timido nel senso di progettare, oggi credo che abbia una grande voglia di far vedere che l'Aquila e il cratere possa riprendere anche sulla parte economica. Io adesso spero anche nella nuova amministrazione provinciale con la quale sicuramente ci può essere una progettualità diversa, e tutto quello che è stato fatto finora è stato fatto semplicemente per la buona volontà dei cittadini. Noi cittadini siamo dovuti organizzare all'interno come comitati perché non abbiamo visto nulla, non c'è stato nessun tipo di programmazione e progettazione da parte delle amministrazioni. Ora iniziamo a sentire il neopresidente della provincia dell'Aquila, Antonio Del Corvo. La sua è stata una elezione che per coloro che osservavano sui media dall'esterno della provincia dell'Aquila è stata accolta con una certa sorpresa, perché tutti ricordavano Stefania Pezzopane, presidente dell'amministrazione provinciale di centrosinistra, come una protagonista molto forte, insomma, sia delle modalità dell'intervento sia poi all'inizio delle critiche che sono iniziate ad abbattersi su l'eccesso di vanto che veniva dal governo. E poi c'è stata la reazione dell'elettorato, la reazione dell'elettorato che ha portato alla vittoria di Antonio Del Corvo. Io vorrei stare fuori, presidente, dai temi della campagna elettorale, però vorrei chiedere a lei, che appunto si trova adesso a subentrare a quell'eredità e a trovarsi di fronte a questo focus di richieste intorno alla ricostruzione che dopo un anno aspetta ancora, e rispetto alla sfida del rilancio economico, perché è chiaro che una città in cui il centro storico rimane per terra è una città in cui tutto il reticolo di attività è rimasto fermo nel tempo e rischia di non tornare mai più. Ecco, di fronte a questo le sue prime intenzioni come neopresidente della provincia quali saranno? Ma bisogna mettersi subito al lavoro per accelerare questo discorso della ricostruzione. Qua io vorrei fare una precisazione: qua si confonde la ricostruzione dei centri storici, che è il vero problema, sentito dai cittadini. Il popolo delle Cariole è nato proprio perché c'è stata questa attenzione nei mesi passati. Però bisogna anche sottolineare come la protezione civile si sia dato pure delle priorità. La priorità era quella di dare delle case. Quando si dice che 16.000 persone nel progetto casa, nei progetti MAP non rappresentano la maggior parte della popolazione, vorrei far capire che si tratta, in base ai criteri che la protezione civile si è data, della popolazione meno abbiente, cioè quella popolazione che, se si fosse fatto ricorso ai container, fra 10 anni stava ancora nei container. Quindi voglio dire, cioè, è un tipo di popolazione, un target dei cittadini che difficilmente avrebbe trovato una soluzione per proprio conto. Vorrei fare per quanto riguarda il discorso cosa fare nella provincia per la ricostruzione, c'è tanto da fare. Le linee guida che sono state emanate dal commissario alla ricostruzione, nonché presidente della regione Gianni Chiodi, emanate a poche settimane dalla sua nomina, perché non dimentichiamo che il commissario alla ricostruzione è subentrato al Bertolaso del 2 di febbraio. Bene, queste linee guida sono comunque un documento in base sul quale adesso si sta discutendo. Io credo che la provincia possa fare molto affinché si arrivi alle definizioni delle stesse, perché solo con questo strumento poi i sindaci avranno la possibilità di dire come vogliono ricostruire i centri storici. E qui la provincia può fare molto sia in termini di raccordo tra i comuni e il commissario alla ricostruzione Gianni Chiodi, e sia in termini di approvazione di questi strumenti che poi i consigli comunali dovranno proporre, perché una delle deleghe che ha la provincia è proprio quella in materia urbanistica. Quindi tanto c'è da fare. Io stesso ho detto che istituirò un apposito commissario, un apposito assessore alla ricostruzione, perché questo dovrà essere uno dei motivi che dovrà tenerci impegnati tutti i giorni. Questo assessore dovrà collaborare con me e con il presidente Chiodi affinché si acceleri questo processo. Allo stesso tempo non bisogna dimenticare quello che si diceva prima, cioè la crisi economico-occupazionale che noi avevamo già prima del sisma del 6 aprile e che adesso dopo il sisma si è ancora più acuita. Questo è un tema che viene da lontano e qua la provincia pure deve dare delle risposte. Io penso al gap infrastrutturale che abbiamo, soprattutto in materia di viabilità, altra competenza proprio della provincia. E qui c'era molto, ma molto da lavorare. E allo stesso tempo vanno messi in piedi questi strumenti che il governo ha messo a disposizione per far ripartire l'economia. Mi riferisco alla zona franca sulla Via Città ed altri strumenti per l'attrazione di aziende. Eccoci tornati in studio. Devo dire che gli SMS sono ricevuti, nel frattempo sono aperti, per così dire, cioè si aprono in una forbice di opinioni, perché c'è chi dice... di fronte alle polemiche successive mi sono pentito delle mie donazioni. Questa è un'ascoltatrice, un ascoltatore, scusate, non capisco dalla sigla di Vercelli, e accomuna nelle polemiche anche le lamentazioni degli aquilani. C'è chi invece dice le proteste degli aquilani fanno giustizia dell'eccesso di propaganda che è stato fatto sulla modalità dell'intervento all'Aquila, e diciamo che quindi mi pare che i messaggi per il momento siano ampiamente rappresentativi, senza, devo dire, larghe prevalenze dei due fronti che si confrontano, cioè su quello che parla di un intervento nuovo che ha avuto degli innegabili punti di successo e che naturalmente non è che ha risolto tutti i problemi, ma in cui prevalgono le cose positive, cioè quello di evitare le tendopoli a tempo indeterminato, e c'è chi invece dice no, la politica ha giocato un ruolo improprio. Torniamo un secondo con il presidente della provincia, che ho fatto parlare troppo poco, perché io le chiedevo su questo punto delle dotazioni dei comuni della provincia rispetto all'identificazione adesso della scelta di cosa è possibile davvero ricostruire, se con più possibile fedelmente rispetto al criterio storico o se invece variando rispetto al passato. Ecco, tra comune e provincia bisognerà pensare a una modalità nuove di tipo di agenzia, eccetera, e aggiuntive rispetto alle dotazioni dei comuni e dei provincia, oppure no, da questo punto di vista? Ma secondo me non serve una nuova agenzia. Guardi, ci sono state delle norme che hanno dato la possibilità agli enti locali di assumere nuove figure professionali proprio per far fronte a questo problema, proprio perché si sapeva che gli uffici tecnici degli enti locali non sarebbero stati in grado di fare quello che bisognava fare. Nello stesso tempo sono stati incrementati anche i trasferimenti, questi trasferimenti ordinari che lo Stato annualmente fa a favore dei comuni. Ora bisogna vedere come queste risorse vengono utilizzate. Se sono utilizzate nel senso giusto, sicuramente il problema delle risorse umane è un problema che può essere risolto, ci sono strumenti per. Nello stesso tempo, come dicevo prima, i consigli comunali, una volta definite le linee guida, devono decidere come ricostruire i centri storici, se con reti tecnologiche, senza reti tecnologiche, così come prima, meglio di prima e così via. Immagino per esempio qualche consiglio comunale magari deciderà qualche palazzo più recente, magari che non ha una valenza storico-culturale, possa essere, che ne so, abbattuto per allargare una piazza. Ecco, una volta definito ciò, poi sarà possibile quantificare le vere e proprie risorse necessarie che servono per la ricostruzione, risorse che ad oggi ancora non sono sul tavolo, ma che il governo si è impegnato a mettere a disposizione nel momento in cui sarà necessario. Quindi è un lavoro che ha dei passaggi, l'uno propedeutico all'altro. Parlare di ricostruzione, ad esempio, mesi di settembre del 2009, quando ancora si stava trovando la soluzione alla gente che stava sotto le tende, sicuramente non sarebbe stato opportuno. Oggi è il momento adatto, bisogna accelerare. Un nemico che abbiamo, io dico sempre, è il tempo, perché è chiaro che questa attenzione da parte del governo centrale è un'attenzione che col tempo andrà a scemare, quindi noi prima saremo in grado di portare a Roma le nostre richieste e prima sicuramente potrà essere data la risposta che tutti i cittadini attendono. Anche se ragionevolmente, alla luce anche delle precedenti esperienze paragonabili in Italia, il tempo perché i comuni facciano tutto questo e poi si inizia a procedere è un tempo di... Adesso io pronuncio la parola fatidica sapendo che può far zompare sulla sedia molto, però è un tempo di anni, non solo di mesi. Ma guardi, se così dovesse essere, così dovesse succedere, io sarò uno dei primi a chiedere al governo i cosiddetti commissariamenti. C'è stata una parte politica che è stata contraria ai commissariamenti, alle procedure straordinarie ed urgenti. Ma questo ad esempio è uno di quei casi in cui invece io ritengo che nel caso in cui ci fosse un'inerzia da parte del singolo consiglio comunale, ben venga una norma dell'ordinamento giuridico che permetta di togliere questa competenza al consiglio comunale e nominare un commissario che proceda, perché è chiaro che le beghe poi di discussione all'interno dei consigli comunali non possono assolutamente frenare questo processo, non è questo quello che i cittadini vogliono. Don Bruno, nella sua esperienza di questo anno, siamo partiti di fronte al conto degli primi sfollati rispetto ai 16.000 che hanno trovato tra progetto case e progetto dei moduli abitativi, ma rispetto ora alla sfida che grava sulle spalle poi del comune dell'Aquila, lei che cosa si aspetta e sentendo dalla gente che cosa immagina? Pronto? Sì. Guardi, non ho sentito l'ultima parte della domanda perché c'erano dei rumori di sotto. No, dicevo, siamo partiti dal fare l'elenco, no, degli sfollati rispetto a chi ha avuto casa, ma ora che la sfida del centro storico grava poi sulle spalle del comune e degli enti locali, lei cosa si aspetta davvero in concreto? Secondo lei basteranno questi strumenti oppure no? Assolutamente no. Mi scusi, dottor Gerino, vorrei un attimo riportare il discorso ad una ratio che forse il presidente della provincia ancora non ha perché è eletto da poco. Non conosco personalmente il presidente della provincia, per cui non ho nulla contro di lui, però ha detto delle inesattezze e io le addebito al fatto che ancora non è entrato bene nel sistema. E nel progetto case non ci sono le persone meno abbienti, che forse avrebbero avuto difficoltà ad inserirsi, ma queste persone meno abbienti, e invito il Presidente della provincia a fare una passeggiata insieme a me alla Guardia di Finanza dove anch'io vivo, le persone meno abbienti sono proprio in queste strutture ricettive, sia negli alberghi sulla costa che nelle caserme, e insomma fa impressione vedere persone ultra settantenni, spesso single, vedove o vedovi, che si trascinano tutto il giorno per le caserme o per le camere degli alberghi in attesa del pranzo e della cena. Quindi su questo ho detto un'inesattezza e magari dopo il dottor Carlo Magno mi può aiutare anche in un'analisi di questo. Quindi su questo non. Per quanto anche riguarda la zona franca è un'altra inesattezza, perché la zona franca sarebbe dovuta partire, a mio modesto parere, già dal 7, 8, 9 di aprile dell'anno scorso, perché questo sta impedendo di fatto all'economia di ripartire. Si è puntato tutto sul progetto casa, si è puntato tutto sull'università, sul far tornare i ragazzi all'Aquila, ed è stato fatto bene. Io non dico che questo non andava fatto, però forse andava seguito anche un altro criterio. Per quanto riguarda il comune, guardi, io sono molto, molto scettico, perché ho visto anche per noi preti, chi ha vissuto il terremoto quella notte, per molti mesi non ha avuto una situazione lucida, un giudizio lucido su quello che era accaduto, per cui qualcuno che viene da fuori ti aiuta a vedere con occhi diversi la realtà. Ecco, io credo che anche il sindaco, anche gli assessori, avendo vissuto il terremoto, forse non hanno chiari né gli obiettivi né le strategie. Ah, però Don Bruno, questo è un po' singolare, perché abitualmente si propende a credere l'esatto contrario, cioè che coloro che poi sono colpiti conoscono la situazione, la sua evoluzione storica da sempre, dicono a chi viene da fuori: e voi adesso venite da fuori e pensate di darci le priorità. Ma che ne sapete? Lei dice l'opposto. Guardi, dottor Gino, purtroppo la realtà, anch'io pensavo questo, ma quello che è accaduto, cioè il dottor Bertolaso è arrivato da fuori, ha imposto, diciamo, ma tra virgolette nel senso buono, una sua strategia, una strategia che ha funzionato per molte cose e ha risolto dei problemi. Da quando è andata via la protezione civile, dal 31 di gennaio, la situazione all'Aquila è immobile, non si è più mosso nulla. Chi stava nelle caserme continua a stare nelle caserme, chi stava negli alberghi continua a stare negli alberghi, addirittura c'è gente che è dimenticata sola. Io conosco una signora a Città Sant'Angelo che è da sola nell'albergo, una signora ultra settantenne, la quale mi diceva: Don Bruno, per vincere la solitudine ho imparato a chattare, ho imparato a usare la webcam, mi sono comprato il portatile. Per cui c'è una situazione di stallo assolutamente insostenibile, ormai non si può più, cioè l'Aquila, ogni volta che uno rientra l'Aquila, ha un attacco di depressione incredibile, ma non per le macerie, ma per quello che non si sta facendo. Come diceva anche il professor Carlo Magno, noi cittadini siamo stati completamente espropriati della città, e questo ha avuto delle cose positive, delle valenze positive e delle valenze negative. Questo è un po' quello che temo anch'io, perché nella mia esperienza gli enti locali, quando si tratta di, insomma, non sono grandissime città, secondo me non hanno proprio la strumentazione adeguata. Io per quello sto insistendo molto su questo, e anche al presidente della provincia torno a chiedere, ha sentito quello che dice Don Bruno, se la sensazione che si dovesse poi diffondere è quella che dopo il 31 gennaio, dopo che la protezione civile ha lasciato alle strutture ordinarie, sia pure con strumenti straordinari di integrazione, la facoltà di intervento, ma se si dovesse diffondere questa impressione per cui si entra nella paralisi e nella stasi, sarebbe una sconfitta per tutti. Forse è per questo che bisogna darsi tempi tra i responsabili degli enti locali di una valutazione molto rapida per capire se si è in grado di procedere in maniera ordinaria o se non bisogna chiedere qualche cosa di diverso per coordinare gli interventi e scegliere. Lei che pensa, Presidente? Io sono completamente d'accordo con la seconda parte del discorso di Don Bruno, e difatti già nell'intervento precedente mettevo in risalto come nel caso di inerzia degli enti locali ben venga una procedura ad hoc di commissariamento, perché questo problema può esserci. Voglio anche ricordare che il mese di febbraio e di marzo, purtroppo, dopo che è andata via la protezione civile, siamo stati alle prese con le elezioni, che in certo senso ha pure bloccato un certo processo che si era avviato. Però pure le elezioni si dovevano fare, era un anno che erano state rinviate, noi dovevamo votare l'anno scorso insieme alle altre province abruzzesi e si è prorogato di un anno. Io credo che oggi è chiusa questa fase, adesso bisogna rimboccarsi le maniche e rimettere in piedi tutto l'iter per arrivare a... Sono d'accordo e quindi ribadisco la necessità che nel caso in cui gli enti locali non fossero in grado di prendere decisioni che l'ordinamento giuridico ripone nei consigli comunali, questi enti locali vengano commissariati almeno per quanto riguarda questa parte di competenza, perché ripeto, noi abbiamo un grosso nemico, il nostro nemico è il tempo, quindi le decisioni devono essere veloci. La struttura di missione capeggiata dall'architetto Fontana ha predisposto queste linee guida che diciamo è una prima bozza, sulle quali adesso si è già aperta la discussione. Io credo che da qui a qualche settimana, non di più, bisogna definirle e poi procedere e mettere nel tutto ai consigli comunali. Eccoci tornati qua in studio a un anno dal sisma che ha colpito l'Aquila e l'Abruzzo. Abbiamo sentito il presidente della provincia, Antonio Del Corvo, dire sì, rapidamente dobbiamo metterci in condizione con la struttura di missione di verificare quanto gli enti locali sono in condizione davvero di sobbarcarsi dei compiti che li aspettano ora che dall'emergenza si è passati dalla fine del 31 gennaio alla ricostruzione e al rilancio organico delle condizioni per lo sviluppo, altrimenti chiedere immediatamente commissariamenti che consentano provvedimenti e procedure straordinarie. Come vedete, il punto è sempre questo nel nostro paese, cioè le procedure ordinarie già non riescono a fronteggiare l'ordinaria amministrazione. Lo sappiamo benissimo quanto si oppongano spesso per ritardi, per inammissibili intrusioni e contraddizioni ai tempi ordinari, quelli che ogni impresa, che ogni cittadino vorrebbe avere per vedere evase le proprie pratiche. Figuriamoci poi se sono in grado di fare ciò che a loro si chiede nei momenti straordinari, non quelli dell'emergenza dove devono intervenire obbligatoriamente personalità e strutture dello Stato con procedure straordinarie, ma quelli successivi alla fase dell'emergenza, ma che restano caratterizzati da gravissime problematiche urbanistiche, architettoniche, di decisioni in tempi rapidi, di centinaia e centinaia di unità abitative, di criteri di intervento diversificati e ovviamente anche del riavviamento delle attività economiche, senza le quali poi tutto questo non ha più molto senso, perché significherebbe pensare di rimettere in piedi centri morti e non più vivi, visto che sono le attività economiche quelle che consentono ai cittadini poi di starci davvero con un qualche senso all'interno di case magari anche antiche. Ecco, da questo punto di vista chiedo a Carlo Magno, non si è forse, glielo chiedo apposta provocatoriamente a lei che è direttore dell'Accademia delle Belle Arti, insistito con giusta preoccupazione sul grande patrimonio che veniva a essere colpito all'Aquila, patrimonio artistico, patrimonio culturale, dimenticando che poi quel patrimonio artistico e culturale ha un senso innestato in un centro come è stato prodotto nella storia, perché veniva prodotto da dei committenti in cambio di denaro, da delle congregazioni perché raccoglievano vita civile organizzata. Insistere tanto sulle culturale quando poi ci si dimentica del tutto la possibilità di immaginare quale tipo di attività economica possa stare intorno a un centro che viene recuperato o si tenta di recuperare il più possibile com'era e dov'era, non è forse una specie di lusso dei nostri tempi? Sì, allora faccio una precisazione. E noi già abbiamo un commissario che è il presidente della regione Chiodi, certo. Per quanto riguarda il cratere, invece per l'Aquila città c'è il sindaco che è vice commissario, sì. Quindi siamo commissariati, nel senso a noi va bene, però il commissario per la città dell'Aquila, che è il sindaco, io non do tutte le colpe a lui, è imbrigliato nella pastorella politica tra i vari gruppetti. Se pensiamo che ad Aquila ci sono 41 consiglieri, ci sono 22 gruppi consigliari, potete immaginare 22 su 41, questo non lo sapevo, però sì, insomma è una cosa che non esiste in nessun parte del mondo, e quindi immaginate cosa può succedere in un consiglio comunale. Quindi ogni gruppo di consiglieri, che è composto da uno, da due o da tre massimo, pensa di dover fare i piani di ricostruzione, e su questo siamo proprio fuori da qualsiasi logica. Quanto quello che sta dicendo lei, sono d'accordo. Certo che si è pensato, delle cose devono andare parallele, ma la cosa grave è un'altra, che oggi noi abbiamo il commissario, ancora commissario vice di Bertolaso e tuttora per bene l'ingegnere Marchetti, che si occupa dei beni vincolati sia ecclesiastici che statali, e invece la parte cosiddetta privata è stata data al comune, e qui siamo bloccati, non vanno insieme. Cioè l'ingegnere Marchetti parte e ha, anche non avendo risorse, io lo so benissimo perché più volte abbiamo interloquito, non avendo risorse va avanti e mette in sicurezza tutto quello che gli compete. Dall'altra parte noi abbiamo, dalla parte comunale, quello che diceva anche il presidente del Corvo, una amministrazione che è incapace nel muoversi e nel far sì che ci siano, perché non ci sono dotati come potevano di assunzioni specifiche. Noi dovevamo avere all'Aquila 32-40 ingegneri architetti che potessero coadiuvare il due singoli ingegneri che sono al comune, e invece questo non è stato fatto. Eppure il presidente del Corvo ha riconosciuto che appunto gli strumenti per fare queste azioni ci sono state. Come mai il comune non le ha fatte? Ma non le ha fatte perché sono, con mi perdoni la mia franchezza, sono incapaci nella gestione. Noi eravamo già collassati prima del terremoto. Un'amministrazione che non riusciva, abbiamo fatto una diatriba su una metropolitana di superficie per 7 anni, 8 anni. Ci sono incatenati in questi discorsi di metropolitana sì, metropolitana no, per una cosa elementare, solo semplicemente perché non ci sono idee per progettare e programmare una città storica com'è quella dell'Aquila. Io per questo dico che il comune dell'Aquila è commissariato dal nostro sindaco, però non si avvale di questo potere, perché lui va al consiglio comunale e cerca di il consenso oggi non è più possibile con la situazione che dicevo prima. 41 consiglieri e 22 gruppi consigliari, quale consenso si vuole trovare? Noi adesso c'è un rimpasto di giunta, cercato di, come dire, accontentare i vari frammenti di questa politica che è persa, si è parcellizzata in piccoli interessi privati, che fa proprio un momento, e noi dovremmo andare o a rivotare, quindi a rivotare affinché i cittadini possano avere una giunta e un sindaco che è per il terremoto, perché noi l'abbiamo votato prima del terremoto ed erano incapaci, tant'è vero c'è stata una disaffezione totale nel comune dell'Aquila dei cittadini, in quanto avevano completamente allontanato la gente dalla politica, e su questo io dico che è importante che prenda atto il sindaco, o si muove in questa direzione, oppure noi stiamo proponendo alle autorità un comitato di salute pubblica, individuando una serie di personaggi, e io spero che il Presidente del Corpo e il Presidente Chiodi ci diano una mano affinché la città dell'Aquila si possa dotare di persone che, al di fuori degli interessi personali, a casa mia non ha nessun danno. No, ho capito il ragionamento, la sua proposta, ed è comunque quello a cui volevo arrivare con la puntata di oggi. Chiedo a Don Bruno, dopo tanti mesi di polemiche sulle scelte che aveva fatto la struttura emergenziale, cioè le case e i MAP rispetto al resto, ora e dopo i due mesi, ammette il Presidente del Corvo, con poi la campagna elettorale che è intervenuto probabilmente anche ad accentrare l'attenzione, ora si viene al punto in cui gli aquilani, di fronte a se stessi, di fronte al sindaco, di fronte al proprio consiglio e giunta comunale, dicono le cose, però c'è anche una parte che sta direttamente a noi che ci pare non funzionare, perché Eugenio Caromagno in questo è esplicito al punto tale di dire qui se il sindaco non capisce che non è il consenso quello che serve, ma decisioni, assunzioni per procedere eccetera eccetera, io propongo un comitato di salute pubblica. Don Bruno, quando sono gli aquilani di fronte a se stessi e a non dover più guardare alle insufficienze, alle scelte fatte da Roma, ci sarà la forza per avere insieme coesione ma rapidità, per prendere il meglio dalle esperienze purtroppo di altre tragedie simili da altre parti del mondo e non rimanere con le mani in mano? Quali pensa che siano davvero le risorse che la politica dell'Aquila può dare alle richieste vostre? Ma guardi, io credo di poter rispondere tranquillamente sì alla sua domanda, nel senso che l'Aquila ha delle risorse, ha delle potenzialità, ha delle maestranze, soprattutto ha un popolo capace di rimboccarsi le maniche e di lavorare, di non sedersi a terra e aspettare sempre tutto dall'altro. Anche questo un po' mi fa specie, detto dal presidente della provincia, cioè questo eccessivo statalismo che lui ha un po' paventato. L'aquilano è sempre stato uno abituato ad una natura molto dura, alla lunga attesa su per le montagne, a pascolare il proprio gregge, e non voglio far poesia, ma è nel DNA dell'aquilano la voglia di ricostruire, la voglia di ricominciare. Io mi auguro davvero, Bruno, che sappiate trovare tra voi tutto ciò che invece poi ha costituito anche elemento di polemica rispetto a chi ha animato poi la struttura dell'emergenza. Oggi abbiamo inteso fare un bilancio senza polemica, ma non abbiamo nascosto insomma i problemi. Io ringrazio il presidente, il neo presidente della provincia, Antonio Del Corvo, ringrazio tantissimo Don Bruno Tarantino, il parroco della chiesa dei Santi Marciano e Nicandro all'Aquila, ricordo il suo libro Terremoto all'Aquila, Io c'ero, e ringrazio Eugenio Carlomagno, direttore dell'Accademia delle Belle Arti, che è un animatore del popolo delle Carriole e che ha chiesto strumenti operativi, non ha solo polemizzato. Mi piace questo spirito, di fronte ai guai bisogna tirarsi sulla manica, ma bisogna sempre ricordarsi di avere un cervello. Grazie a tutti, ora la linea al giornale radio, l'appuntamento a domani.